Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Tempo, comunque vadano le cose, lui passa e se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo. Ah, guarda, qua se c'è una qualità di questo programma è che certamente non ci si annoia. Noi non ci annoiamo, speriamo anche coloro che ci ascoltano, perché ogni giorno proviamo a mettere sul piatto un sacco di argomenti interessanti, insomma, Nicoletta, quindi così ti do il buongiorno questa mattina. Grazie, mi piace. Mi piace anche perché con te il tempo vola e stiamo sentendo Non m'annoio di Jovanotti e mi viene un po' da sorridere pensando ai genitori di San Bedemiano, paese tempo prezioso. Il tempo è prezioso, che se arrivano in ritardo a prendere i figli al nido, ma adesso ti passo subito la parola perché qua vanno di mezzo non solo il cuore. Io ho dimenticato per 2 minuti mia figlia al nido e lei me lo rinfaccia ancora. Non era al nido, scusate, alla scuola materna, quindi era già 3 anni, 4 anni. L'ho trovata disperata, che piangeva in lacrime, e ancora a distanza di anni. Qual era delle due? La più piccola. Ah, la più piccola, perché se fosse stata la più grande te l'avrebbe fatta pagare oggi, ti avrebbe portato in tribunale, perché da ieri abbiamo un'avvocata tra di noi, già grande, la Benedetta, e quindi adesso che lo abbiamo fatto sapere a tutti. Allora, no, a proposito, chissà come gestirebbe lei legalmente questa grana di questa, di questo, no, non so adesso, insomma, questo comune ha deciso di multare chi non arriva puntuale a prendere i figli all'uscita. Una contravvenzione che sarà dai 10 ai 40 euro a seconda del ritardo. Insomma, vogliamo sentire i nostri ascoltatori che ne pensano su questa storia? Sì, e se qualche volta siete stati dimenticati a scuola, all'asilo, perché questo è un po', per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno, perché una volta un po' di ritardo potrebbe essere tollerabile. Il tema è l'irriducibile, insomma, della situazione. Allora, non perdiamo tempo perché sennò multano anche noi. Iniziamo la nostra rassegna stampa. Allora, come sempre, intanto la nostra rassegna stampa la apriamo guardando un po' cosa accade stamattina sui mercati finanziari. Abbiamo una situazione contrastata, interlocutoria la si definisce qualche volta nel gergo finanziario, perché siamo in attesa di un dato molto importante. Arriva nel primo pomeriggio, è la disoccupazione americana di settembre, e questo dato è sempre un test chiave per la Federal Reserve, per la Banca Centrale Americana, che, come sapete, entro un paio di mesi potrebbe rimettere mano alla politica monetaria con un aumento dei tassi di interesse, appunto, negli Stati Uniti, e sarebbe il secondo nel giro di un anno, dopo averne promessi almeno 4 nel 2016. Non ne ha fatto neanche uno, forse lo farà a dicembre. Abbiamo Parigi che è in ribasso dello 0,12%, Francoforte perde lo 0,16%, Londra è positiva di mezzo punto percentuale, qua viaggia sui massimi da oltre un anno e mezzo grazie alla sterlina che continua a precipitare, Milano più 0,28%. Abbiamo un generale recupero dei titoli bancari che anche ieri in gran parte sono andati bene, grazie alle promesse della Banca Centrale Europea, che ha detto con il quantitative easing, il piano mensile di acquisti di titoli di Stato, andremo avanti probabilmente oltre il prossimo marzo. A marzo 2017 il piano era previsto che terminasse, e quindi questo ha incoraggiato appunto gli ordini d'acquisto sui titoli bancari. Ieri ha avuto un'altra giornata molto difficile Monte dei Paschi, che oggi invece prova a recuperare 3,5 punti e riconquista i 17 centesimi. E quindi è una situazione che comunque vede la banca ancora sui minimi storici per quello che riguarda le quotazioni e il prezzo. Bene anche il Banco Popolare, più 3 Leonardo Finmeccanica più 2,5, Banca Popolare, Popolare Milano e Pop Emilia Romagna, in rialzo di circa 2 punti. Per la nostra rassegna stampa però oggi parliamo anche di lusso. Quando pensiamo al lusso, lo sappiamo, pensiamo a qualcosa di inevitabilmente, necessariamente costoso, anche se non per tutti in realtà il concetto è questo, qualcosa che vale molto dal punto di vista economico. Ci sono piccoli lussi che ognuno di noi si concede ogni tanto, tempo in più per noi stessi, per esempio una bella giornata in una spa, no Nicoletta? Mi piacerebbe molto. Per me andare un po' di più in palestra, se riuscissi, sarebbe un bel lusso. Un dolce dopo un pasto, tu Nicoletta ne hai uno in testa, quale sarebbe per te in questo momento? Io sai che di dolce, di ricette te ne ho date un'infinito. No, non andiamo sempre ad infierire. Ho dato un sacco di ricettine, adesso ho anche i cracker proteici. Proteici, sono pronta. Con la farina di mandorle. Quindi il lusso è che io ne faccia una finalmente di questa. No, adesso te li faccio nel weekend, che così poi te li do. A me piace molto cucinare, allora, e dedicarmi alle persone che amo, a cui voglio bene. Dedicare del tempo, avere del tempo, per me questo è il lusso. Soprattutto avere la consapevolezza che lo stai utilizzando bene, certo, essendo presente e dedicarla a delle persone che ami. Chissà questa se la è... pensa così un'amica di Cuore Denari, che è Nicoletta Polla Mattio, direttrice di Autospend It, il mensile del Sole 24 Ore, che proprio nel numero di questo mese tratta le ultime tendenze in fatto di lusso. Oggi è in edicola con il numero di ottobre. Nicoletta, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. Sono assolutamente d'accordo con quello che stavate dicendo. Il tempo è un lusso. Assolutamente sì. Già, infatti, anche ah, perché poi le Nico pensano sempre un po' allo stesso è vero, modo, le Nico e Nico. Allora andiamo un po' ai temi più rilevanti di questo numero appunto di Autospend It dedicato al lusso, il lusso per tutti, no Nicoletta? Vi dedicate anche a questo mondo da questo punto di vista. Si parte per esempio con una bella intervista ad Andrea Segre, docente di politica agraria internazionale comparata all'Università di Bologna, che è il fondatore di Last Minute Market, lo conosciamo bene, l'abbiamo intervistato anche noi spesso, e lui nelle sue dichiarazioni, Nicoletta, parla proprio di lusso a tavola, che vuol dire non sprecare. Infatti, ed è un bellissimo paradosso, no? Perché di solito il concetto del lusso è legato invece all'idea dello spreco, e invece Segre, da quel provocatore che è, ribalta la prospettiva e dice invece il lusso è dare valore alle cose e quindi dare la giusta importanza al cibo. Prima parlavate di ricette, appunto di piatti e di tempo dedicato anche alla cucina. Ecco, in qualche modo dare del tempo al cibo, considerare che vale oro, significa anche non sprecarlo. I dati di Segre sono, che spesso Segre porta, sono agghiaccianti da un certo punto di vista, perché soltanto lo spreco alimentare domestico in Italia vale l'1% del PIL, quindi se banalmente si azzerasse lo spreco domestico ci sarebbe un risparmio economico enorme. Ma occupandoci noi appunto di una prospettiva diversa, l'abbiamo interrogato su che cosa significa dare valore al cibo. Apparentemente non c'è bisogno di dare più valore, no? Siamo circondati da trasmissioni che parlano di cibo, da chef stellati, show cooking a go-go, esatto, in televisione. E però invece c'è poi questa contraddizione, da un lato di dare molta importanza e poi invece in quello che è il cibo quotidiano, no? E quindi quello che facciamo, quello che ingoliamo magari velocemente alla scrivania mentre si lavora, oppure quello che si fa in una pausa a pranzo affrettata, e invece il più delle volte cibo spazzatura. Certo. Ed è proprio questa contraddizione che fa sì che diamo poco valore, no? A quello che poi nutre corpo e mente, certo, e quello che poi è la base della salute. Nicoletta, in questo numero parlate anche di architettura impatto zero, di piccoli lussi come per esempio una gita a Roma, Autospend It guida nella grande bellezza, e poi investimenti alternativi. Mi piacerebbe che ci raccontassi questa inchiesta. Avete dedicato spazio all'investimento in fotografia, che raramente prendiamo in considerazione. Un minuto di tempo per spiegarci che taglio avete dato a questo tema. È un nuovo filone di collezionismo della cosiddetta foto trouvé, cioè sono foto in realtà non d'autore, anzi foto anonime, quotidiane, che si trovano ai mercatini oppure in alcuni negozi molto specializzati di cui diamo gli indirizzi, che possono all'inizio valere poche decine di euro, che hanno magari delle caratteristiche particolari perché un'inquadratura sbagliata o un dettaglio di un particolare di una città ormai scomparso o superato, e che nel tempo si rivalutano. Si lega molto al gusto personale, senz'altro, si rega al gusto della memoria, ma è anche un'occasione per iniziare una collezione personale che poi magari nel tempo si rivaluta, e veramente con un tasso di accessibilità, certo, legato alla curiosità personale, che è molto interessante ed è anche un modo per riscoprire un po' storie, città, mercatini, appunto in linea con l'idea anche di qualche viaggio fuori porta. Stanno andando alla grande anche le fotografe donne, e anche questo è un filone che noi seguiremo con grande attenzione, magari in una puntata di maggior approfondimento. Grazie Nicoletta Polla Mattio, buona giornata. Grazie, a presto. A voi. Direttrice di Autospend It, in edicola oggi con il numero di ottobre dedicata al lusso, ma anche al lusso accessibile. Nicoletta, non prendersi il raffreddore, il malanno, no, di stagione. Vedi, perché vedi che sono già piena di fazzolettini. Ho la sciarpa di lana addosso, ma come siamo messe? Comunque, i nostri ascoltatori hanno raccolto il nostro invito, ci stanno raccontando di quella volta che sono stati abbandonati in un negozio di scarpe oppure all'asilo, in una chiesa di Venezia. Eccolo là. Scriveteci e chiamateci, ma intanto andiamo a sentire. C'è anche il film di quella donna abbandonata in autogrill, no? Adesso non mi viene in mente l'inizio di Pane Tulipani. Pane Tulipani, eccolo là. Perché infatti l'anello che cadeva dentro il vagone. Esattamente. Lei è magnifica. Andiamo e torniamo subito dopo le informazioni sul traffico. Cuore e denari. Inverno, il sole è stanco, a letto presto se ne va, non ce la fa più. No, all'arrivo dell'inverno mancano ancora settimane, per fortuna. Beh, guarda, ieri qua è precipitata ben bene la temperatura a Milano, eh. Bisogna iniziare a mettersi le calze. Io non le ho ancora messe, ma ho le gambe gelate perché l'aria è più freddina. Allora, in attesa del cambio dell'armadio, toccherà farlo. Oggi proviamo a fare un check per capire se siamo pronti ad affrontare questo cambio di stagione. Del resto le previsioni ci dicono che sta arrivando la prima vera perturbazione dell'autunno, con piogge e abbassamenti della temperatura. Finora siamo state molto fortunate, ma insomma cerchiamo di non farci trovare impreparati, altrimenti rischiamo subito di prenderci raffreddore, influenzina, insomma. Allora abbiamo chiesto ad un amico di Cuore Denari, il dottor Luca Voledo, che è in linea con noi, di darci una mano. Buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovate. Allora, lei come sta? Io bene, grazie. Voi non siete raffreddate? Sì, non sento dalla voce. Ma non mi vedi Luca con la sciarpa? No. Deborah ha una sciarpa proprio. Mamma mia, è tutta... ho una grattugia in gola stamattina che, vabbè. Io ho il naso che cola invece. Insomma, siamo due catorci. Dobbiamo fare qualcosa. Ecco, facciamo qualcosa, perché adesso però non siamo le sole, perché anche qui in redazione, in metropolitana, vediamo già tante persone che tirano fuori il fazzoletto, che sono raffreddate, c'è in giro anche una influenzina. Non è la vera influenza, è una cugina, forme parainfluenzali con la febbre. Allora, facciamo una ABC, dottora Voledo? Per chi iniziamo ad occuparci di noi. Io e Deborah abbiamo tutti questi piccoli sintomi, disturbi, il naso che cola, la gola un po' che fa male, raschia un po', la voce che si abbassa, un po' di freddo, come si dice, nelle ossa. Che sarà? Che allora, si fa? Sarà appunto queste sindromi parainfluenzali, altri virus diversi dall'influenza, che però danno sintomi un po' più sfumati, ma che ricordano quelli dell'influenza. Troviamo un bel abbinamento che magari possa andare bene a entrambe e che gestisca tutta una serie di sintomi collegati a queste sindromi, per esempio l'echinacea e il tea tree oil. Perché l'echinacea e il tea tree oil? Scrivi, Deborah. L'echinacea io ce l'ho nel mio kit in borsa. Dai, ottimo. Mi avete colta preparata. Ottimo. L'echinacea, che tanti usano a scopo preventivo, funziona ancora meglio a, come dire, disturbi in corso, che stanno arrivando i primi sintomi, come si dice. Io suggerisco, ci sono tre specie: echinacea angustifoglia, echinacea purpurea ed echinacea pallida, che si trovano come dire, in arboristeria, in farmacia, vanno tutte bene. Io suggerirei le capsule contenenti i principi attivi concentrati, l'estratto secco, però può anche andare bene la tintura madre, le classiche goccine, che però di solito è un pochino meno efficace. La capsula è più facile, uno la butta giù con un po' d'acqua e finita lì. È anche più comoda, certo. Dai, sì. Questa allora... è un'azione di immunostimolante, quindi rimette un po' in sesto tutto l'organismo, specificamente anche un po' antivirale, mentre invece per un'azione più locale, penso per esempio a Deborah in questo momento che lamentava la mal gola. Di gola, esatto. Pensa a Deborah, lei deve pensare a tutte e due, non solo a Deborah, sennò siamo invidiose qua, Allora no, allora echinacea, quindi, e poi per il mal di gola di Deborah e di chi ci sta scrivendo. Io direi il tea tree oil, che forse il rimedio che mi piace di più in assoluto, è l'olio essenziale di melaleuca alternifolia, in vendita in boccettine. Si prendono pochissime gocce, 2-3 al massimo, o tali e quali per chi è proprio ardimentoso, ma siccome è molto forte, oppure diluite in un cucchiaino di olio, in un cucchiaino di miele anche, si fanno girare un po' in bocca e hanno un'azione antisettica molto importante. L'unica cautela è di non eccedere con le dosi e per eventuali rischi improbabili ma di possibili allergie fare magari una prova prima nell'incavo del braccio, commettendo una goccia o due per vedere che non ci siano delle reazioni indesiderate allergiche a qualcuno dei principi attivi contenuti nell'olio essenziale di melaleuca. E quindi non superare comunque le 2 o 3 gocce al giorno. Per quanti... No, 2 o 3 gocce per volta, per magari volta. Anche 2 o 3 volte al giorno, sì, finché i sintomi non vanno a ridursi. Sono 2 rimedi che possiamo prendere quando iniziamo già a sentirci l'influenzina addosso. Esatto. Dottora Voledo, ci siamo occupati di chi insomma si sente già questa influenza addosso, ma giochiamo un po' in anticipo, cerchiamo di dare ai nostri ascoltatori una serie di informazioni utili per agguerrire il sistema, il nostro sistema immunitario, e prepararlo all'arrivo della stagione fredda. Sicuramente l'alimentazione ci dà una mano, noi lo sottolineiamo sempre, è importante, ricordiamo, abbiamo solo 2 minuti. Dottora Voledo, 5 porzioni di frutta e verdura al giorno tengono e tolgono l'influenza di torno, ma che cosa dobbiamo aggiungere, dottora Voledo? Allora, se parliamo di alimentazione, non dimentichiamo delle sostanze molto importanti presenti negli alimenti proteici, come il ferro, soprattutto per le donne in età fertile, lo zinco, che sono sostanze, si trovano per esempio nei crostacei, nei molluschi, sono sostanze indispensabili per il buon funzionamento del sistema immunitario. Quindi sì, frutta e verdura, 5 porzioni al giorno, ma non, state attenti a non ridurre troppo la quota proteica complessiva. E poi aggiungerei anche qua magari un rimedio arboristico, una pianta. Mi piace. Una che mi piace particolarmente, che credo che forse non abbiamo menzionato molto nelle nostre chiacchierate mattutine, è l'uncaria tomentosa, cioè l'unghia di gatto. Ah, con questa traduzione mi è più facile. Ecco. L'artiglio, che, attenzione, perché poi l'artiglio è un'altra cosa. L'unghia del diavolo, diavolo, sì. Ne avevamo parlato. L'unghia di gatto, che ha questo nome impronunciabile, a chi fa bene, per che cosa e dove lo troviamo? Allora, si trova in erboristerie, in farmacia, nei negozi di alimenti naturali. È una pianta amazzonica che ha una interessante azione immunostimolante, antinfiammatoria, aiuta le nostre difese naturali, e io suggerirei di prenderla anche qua in capsule, che sono le preparazioni che io preferisco, un paio di volte al giorno, da adesso anche per tutta la stagione fredda. Previene e gestisce meglio le malattie da raffreddamento. Grazie dottora Voledo per essere stato con noi. Sono arrivati tanti messaggi lei per chiedere se un rimedio va bene. Scriveteci a Cuore Denari, lo inoltreremo al dottora Voledo. Sì, sulla pagina Facebook, anche vostra. Anche sulla nostra pagina Facebook. Dottora Voledo, grazie. Noi andiamo a sentire il nostro GR. Ritorniamo. Parleremo subito dopo del dopo testamento insieme. Caprotti, e attenzione. Parenti e serpenti. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Quando la morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà. Dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità, non maleditemi, non serve a niente, tanto all'inferno ci sarò già. Ma quanto ci piacciono i testamenti degli altri? Eh? Quanto ci piacerebbe ficcare il naso tra i documenti del signor Caprotti? direi che... Perché non ci basta quello che hanno scritto i giornali in questi giorni. Chissà quanti segreti nascondono quelle pagine. Quanto racconta un testamento su chi lo redige, la sua storia, la sua famiglia, la sua vita personale e professionale. Quanti di noi, soprattutto qui al Nord Italia, non vedevano l'ora di sapere tutto su, appunto, il testamento Caprotti, il patron di S. Lunga, una delle insegne più famose della grande distribuzione, una delle più grandi d'Europa. Magari a Palermo questo nome non dice nulla, no Nicoletta, però qua dice tanto e come. Ebbene, il testamento è stato aperto 2 giorni fa e si è saputo che il destino di S. Lunga è stato messo nelle mani della moglie e della figlia, perché per la cosiddetta quota legittima, che riserva il 25% dell'asse ereditario alla moglie Giuliana e al 50% ai figli di primo letto Giuseppe, Violetta e poi a Marina, il 16,6% appunto di queste quote. Allora, ho fatto magari anche un po' di confusione, perché effettivamente anche stabilire è molto complicato. Insomma, quello che noi vogliamo fare oggi, più che andare a curiosare tra le ultime volontà appunto di Bernardo Caprotti, che ha già detto, ovviamente ha blindato anche la proprietà di S. Lunga nelle mani appunto della seconda moglie e della sua terza figlia, perché ovviamente la contestazione che lui ha fatto storicamente ai figli di primo letto e che loro volevano probabilmente vendere questo impero, c'è il timore che possa finire addirittura in mano delle cooperative con le quali lui ha lottato duramente nel corso della sua vita, ha scritto anche il libro famosissimo Falce e Carrello. E insomma, noi di tutto questo questa mattina parliamo con un notaio, perché senza entrare nel terreno di questa speciale storia familiare, noi oggi vogliamo ribadire un po' i termini di un testamento, come formularlo, cosa significa la quota legittima, la quota disponibile, si possono rimettere in discussione le volontà della persona che redige il testamento, quante volte lo si può scrivere e riscrivere, insomma. E poi, è necessario essere un Bernardo Caprotti per fare testamento? Lo si deve fare, è opportuno farlo anche se magari le disponibilità finanziarie sono molto inferiori, ma insomma si vuole comunque tutelare la propria storia e quella della propria famiglia attraverso questo documento. Siamo in collegamento telefonico con notaio Arrigo Roveda, presidente del Consiglio Notarile di Milano, che salutiamo. Buongiorno. Benvenuto, bentornato. Eccoci qua. E poi naturalmente, come sempre, microfoni aperti ai nostri ascoltatori all'800 24 00 24. State meditando di redigere appunto questo documento, siete indecisi su sulle vostre naturalmente volontà, e che cosa vi suggerisce anche il notaio? Notaio Roveda, qual è il più complicato e difficile che lei abbia mai redatto, per conto ovviamente di una persona, di una famiglia? Difficile fare una classifica. Certo, le fattispecie più complesse che capitano a un notaio sono quelle in cui si rende in qualche modo necessario tutelare un soggetto debole, un disabile, un incapace o anche semplicemente una persona dalla eccesso di spesa, diciamo. O i testamenti degli imprenditori, che hanno sì e molto a cuore gli interessi della loro famiglia, ma non hanno meno a cuore gli interessi anche dei dipendenti, dei fornitori e di tutti coloro che hanno concorso alla fortuna aziendale. E qui non si vuole, e magari penso anche di interpretare quello che è successo in testamento di cui parlavate, non si vuole che i conflitti familiari poi si ripercuotano sull'impresa e diminuiscano il valore. Infatti il patrimonio in questione è immenso, perché voi pensate che, intanto, solo per parlare di S. Lunga, il fatturato di questo gruppo in questo momento è di oltre 7 miliardi di euro. Il patrimonio è molto alto, ci sono poi tutte le proprietà immobiliari, gli stabilimenti S. Lunga in tutto il Nord Italia, tutte le proprietà appunto di Caprotti relative per esempio anche ad opere d'arte. Lui, per quello che riguarda queste, ha già disposto che molte andranno al Louvre, saranno donate, però insomma bisognerà vedere tutto questo, se i figli, ribadisco, di primo letto vorranno meno rimettere in discussione alcuni aspetti di questo testamento. Questa storia, dal punto di vista professionale, notaio Roveda, che cosa, così, che tipo di riflessioni le ha fatto maturare? Secondo lei era tutto già più o meno scritto, tra virgolette? Certo, il testamento lo era, ma era già tutto un po' come lo immaginavate voi, che probabilmente conoscevate un po' qualche dettaglio di questa storia? Non mi ero fatto domande, non avevo questa curiosità. Tornando un attimo indietro, devo dire come effettivamente ci sia un grande interesse rispetto ai testamenti fatti dalle persone celebri. Eh sì. Tant'è che una mostra che è stata presentata con Signorazza del Notariato l'anno scorso, che è itinerante, appunto i testamenti dei grandi italiani, ha avuto uno straordinario successo. Raccoglie i testamenti di Cavour, Garibaldi, Giovanni Agnelli. E sì, c'è curiosità su questo argomento, spesso uno si domanda cosa succederà, poi sondare la psiche dell'essere umano è molto difficile. E tra l'altro il testamento è uno degli atti più provvisori che una persona possa fare, perché può essere rifatto decine e decine di volte, cambiando le volontà e adeguandole al mutare dei legami affettivi o della consistenza patrimoniale. L'ultima... Quindi è un atto a cui viene data una valenza emotiva molto forte, ma che in realtà è il più provvisorio di tutti gli atti giuridici che si possono compiere. Allora, nel testamento peraltro Caprozzi... Questo me lo rende meno vero? Quindi tu puoi farlo tante volte. Ah sì, assolutamente, anche perché poi le condizioni della tua vita cambiano, no? Notaio Roveda, il tema è proprio quello, perché magari ad un certo punto della tua vita tu puoi essere... proprietario di un tot di beni, e puoi fare certe idea. Scelte di vita, puoi decidere di vendere, riorganizzare la tua storia economica e di conseguenza cambiano anche le disposizioni contenute in un testamento. Può cambiare la tua storia familiare, professionale, puoi decidere di andare a vivere in un'altra parte, per cui insomma chiaramente per questo motivo va aggiornato. Sì, cambiano gli affetti molto più che una volta, cambiano i patrimoni, cambiano i luoghi, cambiano le necessità e quindi non bisogna... Io vedo quando vengono le persone a fare testamento da me, sono veramente emozionate, però va un po' esorcizzata questa emotività del testamento, perché si possono cambiare. Allora, nel testamento Caprozzi, l'ultima cosa che volevo ricordare è che non ha dimenticato la fidata segretaria, alla quale ha lasciato, già negli anni passati aveva fatto delle donazioni anche milionarie, e le ha lasciato poi la metà dei suoi risparmi, quindi anche questo è un aspetto al quale abbiamo un po', diciamocelo, guardato con un po' di malizia, non per naturalmente nessun pensiero recondito, però insomma pensate anche a che tipo di rapporto e relazione si era stabilito con questa persona che lo aveva probabilmente seguito per molti anni e quindi conosceva tutte le dinamiche anche aziendali oltre che familiari e personali. Detto questo, notaio Roveda, andiamo all'ABC del testamento. È un atto appunto revocabile, ce lo diceva lei poco fa, con il quale qualunque persona dispone delle proprie sostanze. Questa è proprio, come dire, la definizione giuridica da codice che questo atto, questo documento ha. Sì, dispone le proprie sostanze per il momento successivo alla propria morte. È un atto che può essere fatto in forma privata, scrivendolo di pugno, datandolo e firmandolo, o con atto notarile. Ci sono diverse garanzie di sicurezza nella conservazione del documento, tra l'atto fatto dal notaio e l'atto fatto privato. Il testamento bisogna anche pensare che qualcuno che non ha interesse a eseguire le volontà possa farlo avere la malizia di farlo sparire. Questo è una cosa da tenere in considerazione. L'atto notarile dà maggiore sicurezza da questo punto di vista. Quindi è quello pubblico, quello notarile, no? Sì, è il testamento pubblico. È vero che deve esserci la presenza di alcuni testimoni? Un testamento è fatto la presenza di due testimoni, viene conservato negli atti del notaio e viene conservato nell'archivio notarile, quindi sarà sempre reperibile e ricercabile anche per il caso in cui non si sappia dove il testamento è stato redatto. Le caratteristiche del testamento olografo invece quali sono? La olografia, cioè deve essere scritto interamente di pugno, datato e firmato. Poi può essere scritto su qualsiasi pezzo di carta, conservato in qualsiasi luogo, se si ha la fortuna di reperirlo, e bisogna stare dare delle indicazioni molto precise alle persone che lo devono trovare, e poi ha la stessa valenza del testamento pubblico. Ecco, c'è questo aspetto che mi ha sempre incuriosito, poi ci può sembrare è evidente anche la motivazione per cui ne è fatto divieto, e cioè che il testamento non può essere scritto al computer, ma viene proprio chiarito con precisione che va scritto solamente di proprio pugno. Perché, notaio Roveda? Perché qualunque persona potrebbe redigerlo per conto di un'altra, quindi è questa la motivazione che sta alla base del divieto della scrittura informatica, diciamo? Si vuole essere sicuri che le volontà siano proprio precisamente le volontà di chi le ha scritte. Scritti di proprio pugno. Scritti da un altro, né modificate da un altro. Allora, che tipo di suggerimenti date voi, notaio, quando una persona arriva da voi con questa volontà? Che tipo di lavoro fate anche per seguirla? Dovete fare prima, non lo so, un check-up di tutta la situazione economico-finanziaria della persona e della famiglia interessata per poi disporre il documento? Quindi quanto è complesso anche preparare il testamento? Ci sono due fasi complesse. La prima è quella dell'ascolto, cioè bisogna far veramente parlare una persona che vuol fare il testamento liberamente, facendogli descrivere le proprie relazioni, le proprie consistenze patrimoniali. Bisogna soprattutto fargli capire che la fotografia del patrimonio al momento in cui si sta scrivendo il testamento è sicuramente diversa da quella in cui sarà data esecuzione, quindi che bisogna dare disposizioni elastiche. E poi la scrittura del testamento può variare da un'estrema semplicità a quando si nomina erede universale una sola persona, cioè si lascia tutto il patrimonio a una sola persona perché magari non si hanno vincoli familiari, a complessità estreme. Complessità che poi nel nostro paese sono particolarmente antipatiche, perché in Italia i vincoli della cosiddetta legittima, cioè quell'istituto che avete molto bene spiegato all'inizio di trasmissione, sono i più stringenti del mondo. C'è poca libertà di disporre per testamento in Italia. Si può arrivare a poter disporre solo del 25% del proprio patrimonio. E so che per voi notai questo liquida rappresenta un limite che andrebbe un po' superato, vero? Che state facendo questa battaglia? Sì, andrebbe superato, andrebbero alleggeriti questi vincoli, perché la società è più liquida, i rapporti familiari spesso sono molto allentati, ci sono genitori e figli che non si vedono più da anni, non hanno più nessun tipo di rapporto perché i matrimoni sono diventati più d'uno, e quindi si sente l'esigenza di lasciare una maggiore libertà. Maggiore libertà che vuol dire riservare una quota minore dell'eredità ai legittimari, cioè a figli, coniugi e ascendenti, e magari convertire il diritto in un diritto di credito, cioè non in un diritto di beni in beni ereditari. E questo aiuterebbe molto anche a portare fuori dall'impresa le conflittualità, cioè a facilitare il passaggio generazionale d'impresa, e quindi un controllo efficace dell'impresa dopo la seconda generazione. Notaio, ci sono già delle domande da parte di alcuni ascoltatori che noi sentiamo volentieri all'800 24 0024. Nicoletta, preferisci andare a Napoli o a Terni? Allora andrei subito a Napoli. Andiamo. Perché è una città che porto nel cuore, e anche subito dopo a Terni, senza nulla togliere a Terni. Marcello, benvenuto. Marcello. Buongiorno a voi, buongiorno, rapidissimi complimenti per la vostra bellissima trasmissione. Grazie. Un quesito per il nostro luminare. Io vorrei sapere, il mio piccolo patrimonio immobiliare andrà a decesso mio e di mia moglie ai nostri due figlioli. È più che altro un quesito di carattere fiscale. Potrebbe convenirmi, dottore, pensare, ipotizzare ad una donazione ancora in vita? Questa è la mia perplessità. Grazie Marcello. Notaio Roveda, allora, cosa suggerirebbe a Marcello di fare? O comunque un testamento ci sta sempre? Sì, un'altra difficoltà è che far capire che il patrimonio non è patrimonio di famiglia, e quindi che se c'è un appartamento intestato al marito e un appartamento intestato alla moglie e ci sono due figli, lasciando l'appartamento del marito a un figlio e l'appartamento della moglie all'altro figlio, non si fa una cosa giusta ed equa, ma si fanno due ingiustizie, o meno. A noi appare una cosa equa, ma in ciascuna successione c'è un diseredato, e questo non funziona. Difficile dare una risposta al quesito del nostro ascoltatore. Innanzitutto, da un punto di vista fiscale, donazione e successione sono trattate nella stessa identica maniera, e quindi tra donare e lasciare in eredità non c'è nessun tipo di differenza. La differenza è che c'è una scommessa sulle future modifiche della legge, cioè se aumentano le imposte è convenuto aver fatto la donazione, se diminuiscono le imposte si è preso una fregatura. Poi il passaggio di un immobile per donazione lascia una serie di scorie nella commerciabilità del bene, per cui prima di fare una donazione bisogna pensarci molto bene. E quindi Marcello gli suggerisce di rifletterci ancora un po', o comunque se vuole... Bisognerebbe sentirlo, capire che grado di stabilità ha questo patrimonio immobiliare, la composizione della famiglia. Insomma, comunque diciamo lui aveva voleva in realtà il chiarimento di cui aveva bisogno era quello di natura fiscale, se dobbiamo dare risposta a domande che non cambia nulla dal punto di vista fiscale, fare la donazione adesso o andare a successione in un momento successivo dopo. Se non cambia la legge non cambia nulla. Benissimo, Maurizio da Terni, veniamo a lei, buongiorno. Sì, buongiorno. Tenga presente che ricorderò che avevi dato la precedenza a Napoli rispetto a Terni. Guardi, Maurizio, lei se l'è legata al dito. Richiami lunedì. Sì, Maurizio, facciamo così, richiami lunedì e io darò la precedenza a Terni rispetto a qualunque altra città. È che in realtà argomento tratterete lunedì, io sono disponibilissimo. Allora, dai, prendiamo un appuntamento con Maurizio. Dipende quanti anni ha Maurizio, perché noi parliamo, per esempio, per quello che riguarda la parte di denari, parleremo, è un termine inglese un po' difficile, ma io ci proverò ad educarvi anche su questo, l'active aging, cioè il mantenimento della, come dire, anche freschezza professionale, chiamiamola così, per i cinquantenni all'interno delle aziende. Questa età anagrafica è molto complicata perché ci sono molte sfide, arrivano le forze nuove in azienda, una grande società del lavoro. Maurizio, l'ho superato sia perché ho 70 anni sia perché di conseguenza ormai me ne sto in pensione tranquillamente. Senti che voce, mentre per la parte di cuore saliremo sulla bilancia perché l'Obesity Day e quest'anno è camminare per stare bene. Appeso come siamo? Potrebbe essere interessante, sì, sul fatto che io faccio i miei 5-6 km al giorno. Maurizio, va bene. E lei il nostro uomo? Allora, soprattutto perché chiama da Terni. Eccolo là. Intanto al notaio Roveda cosa chiediamo? Ecco, ma appunto volevo chiedere al notaio, fare un paio di domande in relazione alla mia realtà che sintetizzo. Io sono separato consensualmente da qualche anno da mia moglie e abbiamo rinunciato consensualmente, d'accordo, al divorzio per evitare di dover rinunciare reciprocamente alla reversibilità della pensione. Chiaro. Io già sono in pensione, mia moglie no. A questo è il fatto che mia moglie rimane ufficialmente erede per quanto riguarda la mia futura e improbabile dipartita. Il problema che mi si pone è questo, per cui volevo sottoporlo all'esperto al notaio. Per quanto riguarda la parte mobiliare non ho problemi per tanti motivi, mentre ho preso in eredità una casa, valore complessivo un 120-150 mila euro, che vorrei lasciare alle mie figlie e in usufrutto alla compagna con la quale adesso convivo. Quale adesso. Ecco, a questo punto su quel valore deve disporre 120... tutto dal punto di vista testamentario. Purtroppo devo andare, Maurizio, velocemente, sì, perché ci si sta correndo via il tempo. Notaio Roveda, allora abbiamo una fotografia molto veloce della situazione di Maurizio. Sì. Cosa gli suggerirebbe di fare? Maurizio ci sta prospettando la volontà di ledere la legittima della propria moglie. Cosa che è possibile fare, ma si corre il rischio che il coniuge poi impugni il testamento. Quindi il fatto di non aver divorziato, se avessero divorziato? Se avessero divorziato non sarebbe più moglie, non sarebbe più legittimaria. Quindi lui, quanto la legittima invade sulla libertà delle persone. È qualcosa che non è più è stata scritta in un momento in cui i rapporti erano diversi, che richiede al più presto una revisione. La situazione di Maurizio è una situazione difficilmente risolvibile. E certo, a meno che non divorzi, appunto, ribadisco, ovviamente Maurizio, con tutto il rispetto per la sua situazione personale, potrebbero risolvere diversamente la questione della ipotetica e futura reversibilità della pensione, magari liquidando in maniera diversa questa ex coniuge, non lo so, notaio Roveda, io questa mattina sto facendo un po' il notaio, così, in libertà dei casi altrui. Io ragionavo sul fatto che il matrimonio fosse ancora in corso, naturalmente divorzia, cambia tutto. Però insomma, ecco Maurizio, forse lei non ha pensato anche alla quota legittima che va alla ex coniuge. Notaio Roveda, stiamo salutandoci, un ultimo aspetto magari interessante da trasmettere ai nostri ascoltatori sul tema del testamento, che non abbiamo potuto dire, gli aspetti sarebbero migliaia, perché è un tema molto complesso, ma qualcosa di che vale la pena trasferire ai nostri amici. Due piccole annotazioni, in Italia se ne fanno pochi, forse troppo pochi, siamo un paese di superstiziosi e scaramantici, ma invece il testamento può aiutare a prevenire i litigi e pensate di non lasciare situazioni ingarbugliate ai vostri eredi. Secondo, in Italia si fanno pochi testamenti solidali, e invece pensare magari a qualche piccolo lascito a chi ha più bisogno dei nostri eredi potrebbe essere qualcosa che ci avvicina ai buoni costumi di altri I paesi. I lasciti solidali, intende quelli? I testamenti solidali. Che abbiamo trattato tante volte a Cuore Denari, un tema che è piaciuto moltissimo ai nostri ascoltatori, e quindi grazie anche per il suggerimento, perché evidentemente è necessario ritornarci. Notaio Roveda, buona giornata. Buona giornata a tutti grazie. Voi. Grazie. Dobbiamo... Esiste una giornata del testamento? Assolutamente, del testamento solidale. Sì, ma certo. No, del testamento, dove tutte le persone vengono informate di che cosa si può fare, si deve fare. Per allora, credo che i notai preparino, della... facciano delle giornate aperte sul territorio. No, su un commento temi, sì. Che mi viene a considerare quante telefonate ha richiamato questo tema. Ah, sì. E l'interesse è molto alto, quindi scriveteci torneremo. Perché il mondo del Consiglio Nazionale del Notariato è a nostra totale disposizione per rispondervi anche in via privata, per cui noi siamo a disposizione, vi faremo da tramite a Cuore Denari @radio24.it. Tu cosa mi lasci? No, mi piace. Io mi erediti la chiavetta del caffè? No, me la eredito la tua? Io so una cosa che ti potrei lasciare che ti farebbe molto piacere e che saresti molto commossa. La macchina del pane, voglio la macchina del pane. Andiamo a sentire i mercati. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. E in questa seconda parte della trasmissione prendiamo ancora spunto dalla vicenda della famiglia Caprotti per parlare di relazioni familiari, quindi di relazioni tra genitori e figli, ma anche di relazioni fraterne. Quando entriamo in famiglia entra a Cuore Denari un grande amico della nostra trasmissione, un grande esperto, il professor Alberto Pellai. Ciao, buongiorno. Alberto. Medico, ciao, psicoterapeuta, autore di libri che hanno un successo strepitoso, Alberto, e che ci aiuta spesso a entrare nelle dinamiche familiari, dinamiche che producono effetti che si fanno sentire nel breve e nel lungo periodo in tutta la nostra vita, anche relazionale. Alberto, allora, la vicenda Caprotti che ha ispirato un po' queste nostre considerazioni, e naturalmente in cui noi non vogliamo entrare dentro, ma ha suggerito lo spunto infatti della prima parte di Cuore Denari, abbiamo parlato di testamento, ci porta a considerare una situazione in cui sembrano esserci un rapporto tra genitori e figli di un determinato tipo e rapporti anche tra i fratelli che possono sentirsi in qualche modo prediletti o messi un po' da parte. Quindi noi prendiamo lo spunto, non entriamo nelle dinamiche della famiglia, non ci permetteremo mai, ma la notizia ci permette di fare questa riflessione, perché invitiamo i fratelli e le sorelle di Radio 24 a mettersi in contatto con noi, parliamo di voi, naturalmente anche dei figli unici, ma oggi diamo precedenza a chi è nato da solo e si è trovato poi un fratello o una sorella a fianco, quindi dei primogeniti, ma anche a chi è nato in una famiglia in cui i primi posti erano già stati occupati, diciamo così, quindi dei secondi e terzogeniti, perché vogliamo parlare della relazione tra i fratelli. Ci sono delle situazioni, delle condizioni in cui ci sentiamo un figlio in qualche modo trattato in modo differente rispetto ai nostri fratelli, e qua iniziano i problemi. Alberto. Direi che ci sono delle condizioni oggettive per cui i figli a volte necessitano davvero, no, di trattamenti differenti. Penso ad alcuni figli magari che nascono con un problema di salute, oppure al fatto che ci sono dei figli che hanno tantissime competenze, si muovono nella vita come dei guerrieri, e quindi i genitori in qualche modo li lasciano andare, li lasciano fare e si concentrano magari di più su un altro figlio che invece non ha tutte quelle capacità già in partenza, non ha acquisito quelle competenze di base. Poi È vero che però ci sono anche tante storie di sofferenza, perché è come se i genitori avessero utilizzato dei dispositivi educativi e relazionali diversi in base a dei pregiudizi, cioè penso al fatto che a volte le figlie femmine sono trattate in modo molto differente dai figli maschi, che a volte il primogenito è quello che in qualche modo viene investito di tutta la responsabilità magari di tirare avanti, no? Un'azienda di famiglia. E infine c'è, credo, poi proprio un po' invece l'intelligenza del genitore, che magari di fronte al successo di vita di un figlio e all'insuccesso di un altro si comporta proprio evangelicamente, no? Un po' come il papà del figlio prodigo, e cerca di compensare, ecco, con la sua competenza paterna, con la sua posizione di adulto e magari di saggio, una situazione sfavorevole che ha reso più complesso, più difficile la vita del figlio che ha avuto meno successo, a cui le cose sono riuscite meno. Allora, in quel caso il genitore effettivamente farà delle differenze. Credo che la cosa fondamentale sia che le faccia nella trasparenza, lasciare le cose invece nel non detto, cioè aiutare un figlio di nascosto da un altro. Ecco, quelle sono tutte quelle manovre che poi generano grandi litigi o grandi sofferenze. O grandi incomprensioni. Allora, 800 24 00 24, se volete parlarne con voi, perché siamo tutti stati figli prima che essere genitori. Sì. Non tutti siamo genitori, ma siamo passati da questa condizione di figli. A volte ci siamo sentiti trascurati e a volte imputiamo delle nostre difficoltà relazionali proprio alla nostra storia, all'educazione che abbiamo avuto, al trattamento che abbiamo avuto in famiglia. Vi invito a intervenire naturalmente, e vi anticipo che rimarremo in famiglia, perché parleremo ancora di quella punizione molto discussa che sta dividendo i genitori, di cui si parla ancora in rete, della mamma che ha deciso di tagliare i capelli a zero alla figlia bulletta che prendeva in giro una sua compagna di classe che aveva perso i capelli per la terapia per una malattia, e una decisione che fa dividere, che divide un po' i genitori. Alcuni la ritengono una punizione esemplare, altri invece prendono le distanze da un tipo di punizione che invade così pesantemente. Poi il fatto che sia filmata o riportata sulla rete apre di nuovo ulteriori discussioni. C'è chi dice che il video sia inventato, ma questo ci dà lo spunto ancora per fare alcune considerazioni. Alberto, ai genitori all'ascolto, genitori con figli piccoli o figli anche in età adolescenziale, che sanno bene quanto sia importante essere il genitore giusto al momento giusto a seconda delle esigenze del figlio, che non sempre vengono capite però dal fratello, che può individuare nel fratello il preferito, il cocco della mamma o il cocco del papà, perché apparentemente sembra più facile. Quali sono le attenzioni? Tu hai sottolineato una parola che mi è piaciuta molto: trasparenza. Direi che il motto potrebbe essere parlare, parlare, parlare. Cioè, quello che serve tanto laddove un figlio sperimenta un disagio che magari dentro lo fa stare male, che gli fa dire un sacco di cose dentro se stesso: ecco, la mia mamma e il mio papà vogliono più bene a mio fratello, a mia sorella rispetto a me. La cosa che serve tanto in una famiglia è proprio rendere fluida la conversazione, accogliere questa sensazione del figlio, che la possa raccontare, che la possa condividere, e poi magari ridefinirla sempre attraverso le parole, utilizzando dati molto oggettivi. È vero, quando tu hai notato quella cosa con tuo fratello o tua sorella, noi eravamo molto concentrati su di lui, perché? E quindi spiegare il bisogno. Ma non ti ricordi che anche tu in quel momento lì hai avuto un bisogno speciale e noi siamo stati molto concentrati su di te? Ecco, continuare a fare un lavoro che parte dal principio di realtà, dai fatti e non dalle teorie. Cioè, dire a un figlio: noi vi vogliamo bene a tutti in modo uguale, è un concetto astratto che non entra, no, nelle dinamiche di sofferenza del bambino, perché il bambino sta invece molto sui fatti. Hanno fatto questa differenza, hanno fatto per lui quello che non hanno fatto per me. Alberto, tu usi spesso un'espressione che Deborah e io abbiamo preso, ormai abbiamo rubato, è tatuaggio emotivo. Un figlio che si sente in qualche modo ostacolato, non completamente amato dai genitori, che si sente un po' messo in disparte, un po' come l'anatroccolo, il brutto anatroccolo, anche se questo non corrisponde poi alla realtà. Parliamo del vissuto del figlio, di quello che si sente. Diventa grande, cresce, ma questo tatuaggio emotivo condiziona poi la sua vita. All'ascolto io abbiamo già numerosi messaggi di ascoltatori che ci descrivono anche nel breve spazio di un SMS la loro difficoltà, il loro ricordo di figli un po' trattati in modo diverso rispetto al figlio prediletto. Come si fa a sganciarsi da questa situazione che è foriera di ulteriori disagi e sofferenze? Come si può dire basta, ricomincio, perché i miei genitori avranno sbagliato, forse non l'hanno fatto intenzionalmente o forse sì, avevano maggiori affinità. Io sono un uomo, sono una donna, non posso continuare la vita giustificando gli errori, i miei errori sulla base di quello che ho passato o attraversato. È un atteggiamento che richiede un po' di maturità, ma a un certo punto bisogna tirarla fuori. Penso che tu hai già detto proprio un po' le parole che abbiamo bisogno di dirci se ci troviamo in quelle condizioni. Intanto, se quella sofferenza è rimasta un po' un tatuaggio emotivo, molto probabilmente perché tante cose sono rimaste nel non detto e non sono mai state risolte. Quindi l'emozione, la tristezza, la sofferenza, il senso di inadeguatezza giace lì profondo proprio perché non è mai stato sciolto, non è mai stato poi ridefinito, risistemato e probabilmente c'è una barriera di comunicazione tra il genitore ed il proprio figlio diventato adulto. Quando si è adulti però il rischio è proprio quello di rimanere ancora intrappolati nei copioni del bambino che siamo stati, del figlio che siamo stati, e quello che fa molto male alle persone è vivere fondati sul rancore, come se tutto quello che ci succede nella vita sia la conseguenza di quello che la mamma e il papà ci hanno fatto diventare. Ecco, bisogna prendere consapevolezza che una volta diventati adulti il passato va lasciato nel passato, cioè va compreso, va significato, va proprio anche detto, bisogna avere il coraggio di dire se un papà è stato crudele, se una mamma aveva delle preferenze. Io ero proprio il figlio meno amato, il mio papà era un papà crudele, senza idealizzare in modo eccessivo, senza dover salvare, no? Però uno può anche alla fine dire peccato per lui, perché non sa che meraviglioso rapporto poteva instaurare con me. E potrebbe essere una per diventare un papà o una mamma diversi. Adesso ti devo fermare perché parleremo tra poco della mamma che ha tagliato i capelli alla ragazza, se volete intervenire, e parleremo di bullismo, di un bel progetto, anche la cronaca ci riporta anche oggi il caso di ieri, questo Napoli, ragazzo accoltellato, e anche una bella storia di un ragazzo che è stato oggetto di per tanti anni di bulli, ma che adesso corre e ha la sua rivincita. Tra poco. Cuore e denari. E siamo tornati insieme, in linea con noi Alberto Pellai, stiamo parlando del rapporto tra genitori e figli, commentando siamo partiti dal caso di Caprotti, del testamento Caprotti, ma non entriamo naturalmente in quelle dinamiche, ma vogliamo in qualche modo riflettere sulla quella sensazione che molte persone avvertono di essere stati dei figli in qualche modo meno privilegiati di altri. Abbiamo Silvia da Como e Chiara da Padova che hanno accettato il nostro invito e vi invito già a prepararvi perché tra poco, restando in famiglia, parleremo di questa punizione straordinaria di una mamma e naturalmente torneremo a parlare di bullismo, un tema che anche oggi è sulle pagine dei giornali, e vi racconteremo di un bellissimo progetto. Silvia da Como, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Innanzitutto non sono di Como, sono di Milano, ma sono a Como in macchina. Ah, va bene. Tengo a sottolinearlo. Silvia di Milano in viaggio verso Como. Brava, usiamo le parole giuste. Allora esatto. Silvia. Allora, molto brevemente, ci tenevo comunque a sottolineare anche una, diciamo, esperienza differente che è la mia, ovvero sia un disagio che si è creato tra me e mio fratello molto forte, che insomma poi in età adulta si è trasformato in non dialogo totale, sì. proprio per il fatto che il nostro disagio era abbastanza speculare, cioè il mio papà aveva una chiara predilezione nei miei confronti, creando sofferenza a mio fratello. E sua mamma? E mia mamma per lui. Nei confronti di mio fratello, certo. Esatto. E lui, che voleva complicità con mio padre per le cose di maschi, non l'ha mai ottenuta. E io, viceversa, che volevo il bacino della mamma, non ho mai ottenuto. Ma in questa piena consapevolezza, non l'ha, visto che lei ha chiaro il tema, non sì, vi ha permesso di superare poi negli anni questo? No, Nicoletta, perché sì, mi colpisce... No, perché mai fa... perché i miei genitori sono inconsapevoli del, diciamo, perché poverini probabilmente l'hanno fatto senza cattiveria, ma sono totalmente inconsapevoli del danno che hanno creato. Io e mio fratello non siamo mai riusciti, per orgoglio, per a spazzare per via quella ruggine, a parlarne. Ecco, mai, perché è una mai ruggine che intasa le nostre relazioni. Alberto. Esattamente. Sì, Alberto. Due parole per sbloccare la situazione di Silvia, e noi avremmo fatto una puntata che ci starebbe particolarmente a cuore se Silvia ci scrivesse dicendo: ho seguito i consigli di Alberto Pellai e ho risolto. Vi do la foto mia e di mio fratello, abbracciati. Ecco. Dopo una vita di silenzio e di non detto è veramente difficile trovare le parole e soprattutto trovare il coraggio per dirle. Direi a Silvia di partire proprio dall'ultima frase, cioè non siamo mai riusciti a parlarne, e questa la userei come prima frase di una lettera da inviare al fratello e vedere di provare a dire tutte quelle parole non dette per iscritto, mandando una lettera, e vedere un po' cosa succede poi nella reazione del fratello. Magari è tutta una vita che il fratello aspetta il momento giusto per poterne parlare con lei. Fate il primo passo. Allora, come anticipato, volevamo un rapido commento a questo fatto di cronaca che ha visto protagonista una mamma e una figlia. C'è un video pubblicato su Facebook che riprende la mamma che rasa i capelli alla figlia, che ha deriso l'amica malata di cancro. La punizione ha fatto parecchio discutere, ma questo fatto ci permette nuovamente non solo di parlare di punizione, a cui dedicheremo una puntata ad hoc, ma a tornare a parlare di un tema, ahimè, sempre sui giornali. Parliamo di bullismo e di cyberbullismo, e in linea con noi abbiamo Luca Pagliari, giornalista e regista del docufilm Cuori Connessi, un bel progetto voluto dalla Polizia di Stato e da Unieuro, che aiuta i ragazzi, perché rivolte ai ragazzi che vengono invitati a teatro ad aprire gli occhi su i casi di bullismo e di cyberbullismo che sono sempre più frequenti. Ciao Luca! Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Questo sì è proprio, allora, un amico. Sì, bell'amico. Sì. Neanche ciao Deborah ha detto, guarda, proprio un amico. Ciao Deborah, perdonami. Eccolo là. Vedi, simpatico. Vedi che ha fatto lui, ha fatto il gioco della preferenza. Perché no, essere assolutamente... Luca, però ti abbiamo subito sgamato. Non mi sei più amico. Allora, andiamo, Luca, a questo bel progetto. Questo bel progetto che è stato presentato tra l'altro ieri al Brancaccio di Roma, ma sarà proiettato in diverse città italiane, proprio, che è un bel progetto perché parla proprio ai giovani. Luca. Buongiorno Deborah, ecco, e due. Ecco. È un progetto, io spero che più che bello possa essere utile, perché la protagonista, una delle due protagoniste delle storie, si chiama Flavia, e l'abbiamo, per così dire, raccolta la storia di Flavia in un teatro l'anno scorso, perché sono tanti ragazzi che poi scrivono, chiedono aiuto in questi momenti dove gli vengono proposte delle storie, adesso attraverso questo film e poi insomma tutte le considerazioni che si fanno al termine della visione di questo lavoro che dura 40 minuti, e ogni volta ci sono ragazzi che ci vengono a scrivere, dico, parlo al plurale perché con la Polizia di Stato e con Unieuro, diciamo, abbiamo costruito questa task force, e uno tenta di poterli dare una mano. Sicuramente forse l'approccio comunicativo, io uso il forse perché qua bisogna essere portatori di dubbi, funziona perché non portiamo delle verità, non dispensiamo consigli, non c'è il grillo parlante, ma non c'è, accendete la retorica, come dice Alberto Pellai, che è in linea con noi, accendete pensieri. Ci dai un appuntamento, Luca, e poi torneremo sicuramente insieme ad Alberto a commentare questo, a parlare di questo progetto, ma sì, a dare una mano anche ai genitori che ci ascoltano, magari uno può essere un genitore di un bullo. Dove ci si può incontrare, vedere? Allora, lunedì siamo a Milano nel grande auditorium di una scuola, poi proseguiremo l'Aquila, Reggio Calabria, ancora quindi un Roma. Tour che segnaleremo naturalmente sulle nostre pagine. Alberto Pellai, grazie per essere stato con noi. Luca Pagliari, grazie, complimenti. Mettiamo le date. Deborah, noi andiamo. Noi invece la data è quella di lunedì prossimo, quando ritorneremo con Cuore Denari. A tutti buon weekend.